Cari amici di Radio Big World, stasera Pietro Pancamo vi presenta Luigi Roscigno, un giovane autore salernitano nato nel 1986 e che, dopo aver esordito pubblicando versi e liriche su riviste di grande importanza, come Poesia della Crocetti Editore e il semestrale di New York Gradiva, è approdato alla narrativa fantastica, dando alle stampe due romanzi. Anzi, La banda di Caldarrosta, uscito per i tipi della casa editrice Edigio, e La misteriosa fine di Invitz Glu, lanciato sul mercato a gennaio dalle edizioni L'Orto della Cultura. Ma ascoltiamo adesso, dalla sua stessa voce, ciò che Luigi Roscigno intende raccontarci di sé. Un saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Big World, ma soprattutto agli amici di The Big World of Poetry and Fiction. E grazie di cuore a te, Pietro, per l'invito a questa bella kermesse letteraria alla quale prendo parte con grande piacere ed entusiasmo. Bene, mi presento. Il mio nome è Luigi, ho 30 anni, vengo da Salerno e se nella vita c'è una cosa che ho sempre fatto è scrivere, con convinzione, passione, urgenza, credendo fermamente nel fatto che se si scrive è perché dentro si ha qualcosa che non può essere taciuto. E poco conta che si tratti della propria disumanità piuttosto che della propria umanità. In scrittura non c'è nulla di cui andare fieri. È peccato originale la scrittura, atto feroce, se guardiamo alle sue origini rupestri, quando, ancora pittura, si imponeva e sovrapponeva al silenzio imperante del mondo circostante con immagini di sangue, che altro non fanno che interrogare il lettore sul senso di uccidere per sopravvivere e scrivere per non morire. La natura ci ha installati all'apice di una catena alimentare che da sempre dominiamo. Ma questo ci rende in qualche modo migliori degli altri animali? In qualche modo differenti? Ecco perché in scrittura non c'è nulla di cui andare fieri. La scrittura non è altro che espiazione. Atavica, irrefrenabile pulsione di espiazione per una natura, la nostra, inaccettata e inaccettabile senz'altro, ma assolutamente concreta. Anelito al poter essere piuttosto che all'essere. Per quanto riguarda me, la mia storia di scrittore, le tappe più considerevoli di questa, oltre i passaggi poetici degli esordi su antologie e riviste di tutto rispetto, beh, esse sono sostanzialmente due. La prima, La banda di Caldarrosta e il nobile cuore del sovrano dei boschi, edito nel 2012 da Edigio, con prefazione del già direttore Rai Gabriele Laporta. La seconda, La misteriosa fine di Invitz Glu, uscito lo scorso gennaio per le edizioni Orto della Cultura, opera che si fregia di un'accuratissima introduzione del professor Marco Sonzogni, autore del Meridiano Mondadori di recente pubblicazione sul poeta premio Nobel Heaney. L'excursus è quello che ci si può aspettare parlando di due opere le quali, rivolgendosi a due target di pubblico completamente differenti, adottano differenti soluzioni comunicative. La banda di Caldarrosta è una fiaba che, per dirla con le parole del professor Laporta, si va a collocare nel magico reame dei racconti popolari presenti nelle tradizioni di tutte le civiltà, oralmente trasmesso di generazione in generazione. Quindi un prodotto culturale per l'infanzia, che pur avvalendosi di tecniche narrative originali, strizza l'occhio alla tradizione rappresentata dai grandi fabulisti del passato, in primis Andersen, mio mentore. Un tantino differente è il discorso per quel che riguarda La misteriosa fine di Invitz Glu, opera difficilmente inquadrabile per genere, nella quale le parole, e qui cito un passaggio della splendida introduzione donatami dal professor Sonzogni, liberate come fuochi d'artificio nel cielo della pagina, riconfigurano la realtà, ora illuminandone, ora occultandone forme e significati. Un prodotto culturale nuovo, che qualcuno ha forse giustamente classificato come impubblicabile, un esperimento letterario che sento di poter definire coraggioso e, perché no, a tratti pionieristico, in quanto assolutamente privo di un qualsiasi riferimento estraneo alla mia personale visione del mondo. Un'opera da riscrivere piuttosto che da leggere, provando per un attimo ad accantonare i parametri scanditi dall'industria letteraria, per la quale il lettore è nient'altro che il lettore. No, non sono d'accordo. Ma la misteriosa fine di Invitz è anche e soprattutto cassa armonica, a quel sentore di disumanità a cui facevo cenno prima, perché a leggere tra le righe è proprio la disumanità, ovvero la feroce sentenza di una natura ineluttabilmente genomica a montare come le onde di un mare nero tra le sue pagine. Con questo voglio dire che ognuno è destinato a restare quello che è, sempre identico, obbedendo alla natura assegnatagli. E la cattiveria, il male, può adombrarsi in ogni dove, persino in un fiore, ha detto Baudelaire. Alle volte, riflettendo su ciò che realmente siamo, può nascere in noi il desiderio e perfino l'inizio di una catarsi. È naturale. Ma anche in questo caso la meccanica del mondo, quella parte oscura che ne supervisiona il funzionamento, ci riconduce alla nostra funzione, all'ingranaggio per cui esistiamo e per il quale un giorno saremo giudicati, e non necessariamente da un Dio. E allora vorrei finire questo mio primo intervento, col quale spero di essermi presentato a voi degnamente, miei cari ascoltatori, attingendo ancora una volta all'introduzione redatta da Marco per il mio ultimo libro, nel punto in cui dice: tutto ciò che conosco, recita un verso del poeta irlandese Heaney, è una porta sul buio. Al di là di tutto ciò che ci circonda e ci ricondiziona, di una cosa dobbiamo essere grati al protagonista di questa storia e a chi l'ha raccontata, d'aver spalancato il buio come la volta di un tetto. Sì, senza falsa modestia, credo di esserci riuscito. Ringrazio Luigi per questa sua pregnante autopresentazione e lo ringrazio sin d'ora anche per i brani che sta per leggerci. So infatti che li ha stralciati espressamente per noi dal suo bel romanzo La misteriosa fine di Invitz Glu. Ultimamente avverto un gran dolore. Si poteva leggere in cima al poggio, su di una botola grossa come un cratere. Colpa del fango, che le mie radici si ostinano a volermi mandar su. Perciò, se hai avuto, chiunque tu sia, il pensiero di portarmi alcunché pensavi potesse garbare al mio appetito, ti ringrazio mille e poi altre mille volte. Ma il cesto dei rifiuti è posto giusto qui accanto. E che basti il pensiero, poiché io non ho più fame. Lo stomaco del cosmo. Ruotò il capo. Il cesto dei rifiuti era proprio lì, esattamente come recitavi il messaggio sulla botola. Invitz allora vi si avvicinò. In tasca, un cioccolatino ripieno sonnecchiava ancora nel suo incarto dorato. Ve lo gettò. A quel punto fu come se venisse scaraventato in un cielo di notte, come se oltre quella soglia la luce precipitasse in un pozzo senza fondo. E non un lampione a illuminargli la via, solo silenzio e un odore. Tutto il buio ne era impregnato. Arrancava nelle tenebre più nere che avesse mai conosciuto il giovane Ibiz, le sottili braccia protratte in avanti, proprio come uno di quei sonnambuli che se ne vanno sgambettando di notte sui lastrici, traballando a destra e a manca entro un vuoto che sembrava spintonarlo, e con una tale violenza da farlo incespicare, alle volte cadere. A un tratto qualcosa gli si avvinghiò al piede, scaraventandolo per l'ennesima volta a terra. Fu soltanto allora, nel momento in cui si ritrovò col naso premuto contro il suolo, che il giovinetto capì da dove provenisse quell'odore. «Argilla!» esclamò, testandone un campione. Ma quando fece per gettarlo, esso rimase sospeso nel vuoto, un palmo al di sotto della sua mano, scongiurando la caduta. Poi, come fosse un dirigibile, si inalzò al di sopra del suo cappellaccio, dove stette. Per alcuni istanti restò così, immobile, come un astro del cosmo. Quindi, essendosi assicurato che il giovinetto lo guardasse, cominciò per l'azione di chissà quale estro a trotterellare, lento dapprima, quindi sempre più veloce, e mentre in tal modo volteggiava, si scomponeva in una miriade di minuscole sfere, che Invitz riconobbe essere ceci. Come se non bastasse, una vampa arrivò a incendiare i legumi, i quali cominciarono a bruciare senza consumarsi, in una piccola aura luminosa. Intanto, sorpreso per quel che d'incredibile stava accadendo, il giovinetto spiccò un gran salto. Appropriarsi di uno di quegli affari luminosi per poterlo studiare era il suo intento. Ma prima che potesse riuscirci, uno di essi, quello al quale mirava, proferì seccato: «Scioccone che sei! Non siamo affari luminosi, noi, legumibellule! Ci chiamiamo legumibellule, capito?» E subito un gran vento si levò a carpirle. «Sei sordarello, cappellaccio, ti decidi o no? Non startene l'impalato, a breve le fiamme l'avranno bello che digerito, e del poveretto che è capitato tra le tue mani non rimarrà che un cumuletto di carbone, e questo che vuoi, una brace di proporzioni cosmiche sulla quale grillare assieme una manciata di stelle. Piangi quel tuo mare sulla sete che brucia e crepitando sale, piangilo, e la morte si allontanerà da questo fuoco su una nube dalle ali di gracchia. Permetti alle tue figlie d'acqua di annegare, e la morte non diverrà che un respiro per noi che potremo respirarla. Purché ti sbrighi, cappellaccio?» «D'accordo. Andate, figlie mie», esordì il giovane Invitz come se un potere sconosciuto a lui venisse. «Andate, voi che assomigliate a me in quanto assomigliate alla mia angoscia e alla mia paura. Andate fin dove riuscite, fin dove c'è una secchia da riempire, quindi tornate, e che si sappia, l'uomo è acqua, acqua amara, ma non troppo, torbida quanto basta ad avvelenar la morte, trasparente da intenerirla, mossa da sgomentarla. Voi mi appartenete, voi che salite dal timore e dallo sconforto, dalla vita, che è esserci e non essere. Io vi appartengo, eppure decido di barattarvi, figlie mie d'acqua, preziose gemme di dolore, che rendete più leggera questa corona che mi proclama re. Eppur decido di rinunciare, sebbene per una sola goccia, ad esserci, a star nella vita, ad essere il sovrano del mio reame. Vi do, per la vita di un altro re, per un regno che non è il mio. Al rogo, dunque, si immoli al vento, il mare, diventi malandrino lestissimo, risalga ai fiumi, bruci pure il salice che ha sete. Gli dia tanto sale da guarir la sua artrite, curvo sia il suo cuore, alte le sue chiome. Un arido conato il mio pianto? Diamine, intisichisca pure, divenga stantivo, fino alla muffa, fino a diventare malefico. Che m'importa? Ormai ritorno, e ritorno saltabeccando, come fa l'agnellino migratore che ritorna a sé. Badate di fare altrettanto anche voi, figlie mie tristi. Tornate al rogo da cui nasceste, al buio grembo, e spegnete, spegnetevi. Tornate dal dolore, tornate a prima che nasceste, ed io potrò, almeno stavolta, sfuggire a me. E con tutto lo slancio che era consentito alle sue braccia, scagliò le sue lacrime laddove le fiamme erano più alte e il fumo più denso. Allora, per oggi è tutto, cari amici. A risentirci alla prossima puntata con un nuovo autore e nuove letture.